Nausicaa, nella Valle della Rete. Buongiorno da Antonio Dini e bentornati, secondo appuntamento con Nausicaa nella Valle della Rete. Andiamo un po' di corsa questa settimana e quindi recuperiamo subito il punto dove ce l'avamo lasciati 7 giorni fa. La musica che sentite in sottofondo è la sigla originale dell'unica serie di Gundam mai trasmessa in Italia, per la precisione nel lontano 1982. L'opera, considerata una vera e propria icona dell'animazione giapponese, è anche una di quelle più prolifiche in assoluto, con almeno 9 sottoserie. Ma per saperne di più, andate agli indirizzi internet più forniti in argomento tra le decine di migliaia presenti in rete, tra l'altro, e cioè www.gundam.com oppure gundam.anime.net. Ma da che cosa trae ispirazione questa serie di Yoshikazu Yashuhiko, con le sue armature spaziali, i combattimenti in una terra neanche troppo lontana nel futuro? Da cosa prende il via poi uno dei più singolari film di fantascienza prodotti negli ultimi anni, e cioè Starship Troopers di Paul Verhoeven, regista di notevoli qualità tecniche ma anche di svariati flop? Partono tutti dall'opera del discusso Robert Henley, in uno degli autori americani classici di fantascienza. Scrive lo stesso Henley in una lettera: «Questo è un romanzo per adulti che racconta le avventure di un ragazzo di 18 anni. Ho seguito la mia teoria per la quale i ragazzi intelligenti si interessano a cose molto più complesse dei loro genitori. Per questo, Fanteria dello Spazio viene pubblicato in una collana per adolescenti». Così scriveva Henley nel 60. E il successo del libro fu ampio, vinse anche un premio Hugo, l'Oscar della fantascienza americana, e al pubblico del 1959 piacque e anche parecchio. Ma la critica lo ha sempre considerato un romanzo di destra, diciamo anzi di stampo quasi fascista. Secondo chi parla, secondo me, cioè, la cosa non è così, ma forse l'idea che migliore che uno può farsi è quello di andarsela a leggere e vederlo di persona, cosa oltretutto facilitata dalla nuova edizione degli Oscar Mondadori di Fanteria dello Spazio, con la sua società militarista, le sue armature spaziali inventate 40 anni fa e mai così moderne come adesso, e con tutto quell'insieme di cose che nella cyber fantascienza contemporanea si è persa. Adesso però è il momento di Giovanna Giagoni per l'appuntamento con i videogame. Nella scorsa puntata abbiamo fatto una panoramica su quello che avviene e soprattutto sta per avvenire nel mondo dei videogiochi. Abbiamo provato a descrivere in termini abbastanza semplici le differenze fra alcune console. Ok, adesso tenteremo di commentare alcuni titoli cercando di esaltarne per quanto ci è possibile le caratteristiche che più rendono evidente la differenza tra una console e l'altra. Prendiamo ad esempio tre titoli concettualmente molto simili, come Sonic Adventure per Dreamcast, Spyro the Dragon per PlayStation e Banjo-Kazooie per Nintendo 64. Ciascuno di questi è un platform in cui è possibile spostarsi liberamente in ambienti 3D. In Sonic, il porcospino blu della Sega, risalta subito agli occhi l'enorme quantità di colori e l'estrema definizione delle texture, ovvero di quelle sfumature cromatiche che servono ad adornare i poligoni i quali altrimenti sarebbero monocolori. L'ambientazione del gioco è varia: spiaggia, casinò e tempio, raccogliendo il maggior numero di cerchietti dorati per poi finire in città e sconfiggere il terribile boss. Spyro risulta più spartano dal punto di vista cromatico, eppure forse è quello che più degli altri riesce a sfiorare i limiti della macchina su cui gira. Infatti la povera Play deve combattere contemporaneamente contro la poca memoria video e la mancanza dell'anti-aliasing, che serve a smussare le squadrature della texture dal momento in cui si avvicinano. Spyro è il piccolo drago che dovrà liberare un certo numero di suoi simili trasformati in statue dal terribile Nasty Nork, arricchendosi man mano di gemme preziose per poi andare a riempire svariati scrigni. Il Nintendo 64 ha il doppio della memoria video della Play e circa la metà di quella del Dreamcast. Banjo-Kazooie quindi appare molto più colorato rispetto a Spyro e la presenza di un superficiale anti-aliasing riesce a dare un aspetto al gioco molto più morbido e accurato. Ma non solo, anche i protagonisti hanno molto più carattere. Farcito inoltre di mondi segreti, divertenti rebus e simpatici personaggi, Banjo e Kazooie è stato per noi il gioco più completo tra i tre. Vi do appuntamento alla prossima settimana e ringrazio Millennium di Via Embriani a Sesto Fiorentino per i giochi provati in questa puntata. Gaikokuji, i nuovi barbari dell'era digitale. Spazio veramente lungo questa settimana per le scoperte dei nostri barbari, anche perché dalla volta scorsa, dalla prima puntata, erano rimaste in sospeso, secondo me, tre domande. Ed ecco subito la prima. Abbiamo trovato anche il nostro consulente mitografico. Si tratta di Piero, che ci dice, Piero, buongiorno. Buongiorno. Chi era Nausicaa e dove sta? Quella vera, voglio dire. Immagine quella vera, voglio dire quella di Omero. Certamente. Allora, Nausicaa è la figlia d'aria dei Feaci, re di una terra che non sa dove sia, probabilmente in mezzo al mare, visto che è un'isola, ma niente di più. E perché la incontriamo nell'Odissea? Nausicaa è colei che Atena sceglie per far accogliere il naufrago Ulisse, dopo tutte quante le sue sventure al termine dei 20 anni quasi di peregrinazione. E Ulisse arriva su questa terra sconosciuta e Atena pensa bene di mandargli in fronte qualcuno ad accoglierla che abbia un qualche interesse per lui. Per cui questa giovane fanciulla in fiore manda un sogno durante la notte e facendole presagire che forse prima o poi arriverà anche l'uomo dei suoi sogni, appunto. E lei si sveglia da quanto contenta, decide di andare a fare il bucato per tutta la famiglia, perché sa che comunque non sarà solo un bucato. E si avvicina al mare, lava, stira, mentre gioca una palla viene fuori quest'uomo tutto quanto irsuto, pieno di sale, coperto semplicemente da un po' di roni, è anche un po' scomodo tutto sommato, e tutte le fanciulle ancelle scappano, l'unica che rimane è appunto la preavvertita Nausicaa, la quale trova subito bellissimo l'uomo nonostante la sua bruttezza causata, e magari spera anche. No, perché poverina, lei essendo ancora, si immagina una vergine, non ha molte idee, però tutto sommato nel profondo sa che potrà essere il marito quello. Tra parentesi è capitata anche bene, perché Ulisse, girellando di qua e di là per tornarsene a Itaca, ne trova tante di fanciulle disponibili. Ne trova tante e ne coglie anche alcune, come lo stesso non si perita di raccontare alla moglie. E in questo caso? In questo caso no. Nausicaa è comunque la figlia del padrone di casa, di colui che prima o poi dovrà rimandarla a casa, appunto, rimandarlo a casa. E ci tiene più, insomma, a tornare a casa che a cogliere i fiori qua e là in questo caso. Zuzzerellone, senti una cosa, tu hai fatto un esperimento metafisico, oserei dire. Ti sei trovato ad avere alcuni capitoli, alcune parti dell'Odissea sul tuo Microsoft Word, il processore, il word processor col quale si elaborano i testi, e hai utilizzato la mitologica funzione riassunto, la funzione che da un testo automaticamente ne fa il riassunto. Che cosa è venuto fuori dell'Odisseo? Odisseo era un uomo fortunato, ma anche sfortunato. Complimenti, un riassuntone veramente essenziale. Non amo molto complimenti. Ok, grazie mille, ciao Piero. Ciao, bello. E siamo pronti per la seconda domanda. Come si scrive veramente Nausicaa? Nausicaa si scrive con due A, Nausicaa A. E quindi l'indirizzo che avevo dato di Hayao Miyazaki, il Walt Disney giapponese, è www.nausicaa.net. E proprio in tema di Miyazaki, avevo accennato anche un film che sta uscendo tramite la Miramax controllata dalla Walt Disney in America. Si tratta di Mononoke Hime, Princess Mononoke. Sentiamo che cosa c'è da dire al riguardo. From master animator Miyazaki, one of the most influential filmmakers of all time, comes a groundbreaking motion picture event. In a time when gods walk the earth, an epic battle rages between the encroaching civilization of man and the gods of the forest. When the forest has been cleared and the wolves wiped out, this place will be the richest land in the world. It's a war which threatens to unbalance the forces of nature. It will be a battle the humans will never forget. Now, the fate of the world rests on the courage of one fearless princess. I'm not afraid to die, and I would do anything to get the humans out of here. And one brave warrior. You fight like a demon, boy, like something possessed. What exactly are you here for? To see with eyes unclouded by hate. Now watch closely, everyone. I'm going to show you how to kill a god. Fire! Your fate, however, you can rise to meet it if you choose. Featuring the voices of Gillian Anderson, Billy Crudup, Claire Danes, Minnie Driver, Jada Pinkett Smith, and Billy Bob Thornton. Princess Mononoke. Gaikokuji, i nuovi barbari. È rimasto appena il tempo di salutarsi. Nausicaa, nella valle della rete. E di ricordarvi anche che per mettersi in contatto con me l'indirizzo è antonio@vil.it. Appuntamento alla prossima settimana.